Immagino che vi sia giunta notizia delle tesi sostenute giorni fa in non so quale occasione di dibattito storico pseudotale dal nostro buonissimo vicepresidente del Consiglio, il celebre Walter Veltroni. A suo avviso, come ricorderete, la sinistra italiana ha perso il treno, come a dire che non si è dimostrata all'altezza delle occasioni che la storia le offriva, nel 1956, all'epoca della sanguinosa repressione sovietica della rivolta ungherese. Se i partiti di sinistra, e in primo luogo il Partito Comunista, allora si fossero schierati senza esitazione a fianco degli insorti di Budapest, dice Veltroni, avrebbero acquisito i titoli di legittimità ideologica e morale necessari per assumere un momento o l'altro la guida politica del paese. Non avendolo fatto, questo ruolo gli è stato inesorabilmente negato, del che non possono che accusare se stessi. È un'ipotesi, dal punto di vista strettamente storico, assolutamente lecita, nel senso che nessuno può vietare nessun altro di sostenerla, anche se naturalmente i discorsi su che cosa sarebbe successo se qualcuno avesse fatto qualcosa che invece non ha fatto, che poi sono i discorsi su quello che qualcuno avrebbe dovuto fare, insomma, ricordano un po' da vicino quella celebre proposizione sul numero delle ruote necessarie a mio nonno per essere un tramvai. E sono discorsi che la sintassi latina classifica, se ricordo bene, sotto la specie del periodo ipotetico dell'impossibilità, che significa non soltanto che richiedono i tempi storici tanto la protasi quanto la podosi, ma anche che in politica è meglio lasciarli perdere, perché anche se non siamo tenuti a condividere la vecchia definizione della politica come arte del possibile, è ovvio che con l'impossibile nessuno è mai riuscito a combinare qualcosa. E poi, soprattutto, se è piuttosto difficile in certe drammatiche svolte della storia decidere quello che si deve o non si deve fare, non c'è nulla di più facile che sentenziare in merito 40 anni dopo. Deve essersene reso conto persino Veltroni, perché ha cercato di rafforzare la sua argomentazione proiettandosi all'epoca di quelle scelte. Gente come noi, ha dichiarato, se fosse vissuta allora avrebbe marciato contro i carri armati, e lui in particolare sarebbe stato in piazza tra quelli che combattevano contro l'invasione, che è una bella maniera, è un altro periodo ipotetico tanto per cominciare, e poi è una bella maniera di acquisire dei meriti senza pagare dazio, ecco. In fondo, chi da sinistra nel 1956 si schierava con la rivoluzione ungherese, anche senza scendere in piazza, perché la piazza allora era monopolio dei fascisti e di altra gente con cui era meglio non confondersi, proprio per non sporcare la causa degli insorti di Budapest, e chi si ribellava alle prese di posizione del Partito Comunista di Togliatti sapeva di correre dei grossi rischi, tra cui soprattutto quello di mandare in malora le proprie possibilità di agire politico, come è puntualmente successo, lo insegna la storia, ai vari Antonio Giolitti, Onofri, Furio Diaz, Ernesto Reale, e per non dire dello stranissimo destino del gruppo di Arrigo Cervetto. Nessuno ignora che proprio questo argomento è stato largamente impiegato a proprio discarico da tutti quelli che col Partito Comunista allora non hanno rotto, che in genere sostengono di esserci restati turandosi il naso per esercitare la propria influenza onde avviare un processo di trasformazione democratica in quel partito. Ma anche questa alternativa, anche queste sono alternative su cui aveva senso discutere allora, non oggi. E poi, la convinzione del nostro buon vicepresidente del Consiglio, quella per cui lui sarebbe sicuramente stato tra quanti si sono schierati con la rottura, sarà sincera, non ne dubito, ma non è proprio un argomento rilevante in un dibattito serio, è un tipico esempio di quelle che Popper chiamava le proposizioni non falsificabili, nel senso che ci vuole proprio tutta per immaginare un modo qualsiasi per metterle alla prova, ed è meglio lasciarle perdere. Tutti siamo perfettamente liberi di credervi, o senza offesa per nessuno di dubitarne. E se volete un parere personale, io qualche dubbio in materia ce l'ho. Perché lui, Veltroni, nel 56 aveva 3 anni e non poteva certo schierarsi, d'accordo, ma in seguito si è schierato. E il suo schierarsi è stato perfettamente omogeneo con quello di chi allora si era turato il naso. È stato per un bel 20 anni un fedele dirigente dello stesso partito di Togliatti, anzi dello stesso partito di Berlinguer, che nel 1956 in piazza contro Rus non era certamente sceso. lo avrà fatto anche lui per contribuire a trasformare quel partito dall'interno, per portarvi altri valori, altre prospettive, perché no? È una posizione rispettabile, come dicevamo prima, ma inesorabilmente contraria a quella che oggi rivendica lui, cioè alla necessità di uscire. I poveri disgraziati che nel 1956 dal PC sono usciti, a proprio rischio, e sono stati mazzolati mica male, oppure magari proprio in seguito all'elezione di Budapest non ci sono mai entrati, o magari ci sono entrati e ci sono restati a prezzo di travagli e di crisi di coscienza spettacolose, e possono anche incazzarsi di fronte a un "io avrei fatto senz'altro così" di 40 anni dopo di un buon funzionario che da una lunga e onorata carriera di funzionario di partito è stato portato ai fastigi della massima carica istituzionale a cui un membro di quel partito sia mai arrivato nel nostro paese, e adesso che c'è arrivato rinnega con un brillante salto all'indietro di 40 anni la via che lui ha battuto. Cosa che non fa dubitare della sua bontà, che da tempo è largamente provata, ma qualche dubbio sulla sua affidabilità e sulla sua coerenza, come minimo, lo autorizza.